Grey's Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signore e signori, non siamo in fascia protetta, ma il nostro viaggio è particolare oggi, è molto intenso. Sicuramente sarà un'ottima alternativa alla vostra domenica sportiva. E allora, come sempre, siamo pronti per una nuova ed intensa puntata di Voice Anatomy. Preparatevi! Perché già ve l'ho fatto capire, perché oggi l'atmosfera si surriscalda, già, perché non solo attraverseremo il poliedrico mondo della voce, ma ci spingeremo oltre, già, avanzeremo fino a dove gli animi prenderanno calore e i corpi rabbrivideranno. Sì, amici, oggi parleremo del legame forte, potente, indissolubile e fantasioso che c'è tra voce e il sesso. Benvenuti, signori, alla settima puntata del viaggio intorno allo strumento di comunicazione più potente del mondo. La voce. Ebbene, non potevamo che cominciare con la bellissima Je t'aime di Jane Birkin e Serge Gainsbourg, questo momento delicato della loro intima vita. Vi ricordo i nostri numeri di telefono per intervenire: l'800-24-0024 per stare in diretta con noi e accompagnarci in questo bellissimo viaggio. Oggi gli SMS non funzionano. Lo so, succede, ma voi telefonerete e parleremo con voi in viva voce. Il nostro Voice Anatomy, @radio24.it per i racconti della vostra vita, e i provini per il Voice Talent, lo sapete ormai perfettamente perché siete ormai numerosissimi nella nostra segreteria telefonica, il numero verde è 800-28-1212, e anche oggi è in compagnia di una grandissima attrice doppiatrice che sarà la grandissima Giupizzo. Ci sarà uno di voi che si cimenterà in questa prova, ma andiamo subito a conoscere il primo ospite straordinario. È stato un mio compagno di viaggio, non su un treno ma su una bellissima trasmissione, un bell'anno a Buona Domenica. Lui è abituato sia alle luci dei riflettori sia alle luci interne del suo studio. Signori, con noi per parlare del tema del giorno un grandissimo professionista, pronto a chiarirci le idee su molti degli aspetti che riguardano la voce e anche il sesso, tante altre cose, ma oggi su questo poi lo chiameremo anche per altro. Vi dico soltanto, non vi dico ancora il nome, si laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia nel 73, si specializza in psichiatria presso l'Università, è lì dove io l'ho conosciuto, non scherzo ovviamente, presso l'Università degli Studi di Milano nel 77, dal 79 è direttore dell'Istituto Rizza, un gruppo di ricerca che pubblica la rivista Rizza Psicosomatica ed altre pubblicazioni specializzate con lo scopo di studiare l'uomo come espressione della simultaneità psicofisica, riconducendo a questa concezione l'interpretazione della malattia, della sua diagnosi e della sua cura. Signori, Raffaele Morelli. E l'applauso scorga spontaneo in diretta telefonica con noi. Raffaele, mi senti? Ciao Pino, un abbraccio. Dove sei, in mezzo al mare o in mezzo al traffico di Milano? Senti Raffaele, se mi senti bene, allora volevo dirti, le tue pubblicazioni, stavo dicendo, sono infinite, toccano tutti gli innumerevoli ambiti della psiche umana fino ad arrivare ad una concezione univoca del rapporto tra mente e corpo. Insomma, avremo modo di averti con noi per approfondire molti altri argomenti, ma oggi il nostro tema è la voce e il sesso. Che mi dici a quest'ora di questo argomento che stiamo trattando? Guarda, la voce rappresenta di noi l'impronta digitale più profonda dell'anima. Che bello. Noi siamo prima di tutto e più di tutto una voce. E nell'Eros, dove entriamo nel regno della notte, nel buio, per i romani era un grave peccato fare l'amore alla luce, lì la voce sussurra, emette suoni che modificano tutta la struttura cerebrale. Cioè, le cose che diciamo quando noi facciamo l'amore, quelle cose arrivano nel profondo del cervello e lo modificano e lo rigenerano. Quindi quando la sera si va a letto e si dice ma non ho voglia perché sono stanco, si dimentica che quella voce che sentiamo, quel desiderio che sentiamo, produce endorfine, dopamina, serotonina, le sostanze della felicità. Insomma, quanto il benessere psichico, psicofisico può influenzare il nostro modo di comunicare? Basta pensare che le aree del cervello più antiche, la zona dell'ipotalamo, Ecco, in quelle aree del cervello avviene continuamente la trasformazione dell'energia in materia, quindi lì vengono secreti gli ormoni, in qualche modo in quel luogo noi diventiamo ogni volta portatori di gioia e di felicità, e la felicità è forse il miglior farmaco che abbiamo per dimagrire, il miglior farmaco che abbiamo per rinforzare il sistema immunitario, no? Per diventare sempre di più vicini a quello che è il nostro destino. Io mi immagino adesso tu immerso nel traffico lassù che ti sentono parlare di fare l'amore in un certo modo, al buio, parlare al telefono così sembra una chat erotica di un certo tipo, di un certo livello, medio-alto ovviamente, perché sento i clacson che ti stanno circondando, caro Raffaele. Mi fa molto piacere perché Raffaele riesce in pochissimo tempo a comunicare con grande intensità, con grande veemenza, con grande laicità, come piace a me, un concetto così profondo come questo adesso, ma come tantissimi altri. Io sono veramente innamorato pazzo di quest'uomo dal punto di vista etero profondamente, te e ovviamente tantissime persone con lui. E, insomma, la voce è importante, è fondamentale, insomma, Raffaele, la voce che si esprime in un certo modo. L'empatia tra due persone può svilupparsi e crescere anche attraverso un determinato tono di voce o sussiste pure a prescindere? Cioè, cresce questa empatia con una persona solo dalla voce o esiste? Noi modifichiamo le parole, non soltanto in base alle circostanze, ma in base alle persone. Quando siamo con i bambini la nostra voce diventa cantilenante, no? Sì. Quando siamo con una donna con cui stiamo bene o con un uomo con cui stiamo bene, la nostra voce si adegua al suono di lui, quindi la relazione è fatta prima di tutto, più di tutto, del nostro adeguamento della nostra voce alla voce dell'altro. Ed è... E quindi in qualche modo noi siamo, ogni volta che parliamo, pronti a entrare in mondi nuovi e cambiare voce, cambiare il modo di parlare in base alle circostanze, ci ricorda sempre che c'è un timbro, no? Sì. Quell'uomo mi ha fatto impazzire per la voce, è la sua voce, no? E quella voce entra nella nostra identità, come gli altri entrano nella nostra identità. Noi cambiamo soprattutto per i suoni. Basta pensare che in certe circostanze abbiamo il suono della preghiera, il suono dell'affetto, il suono delle carezze, il suono della fiaba, mm-hmm. il suono silenzioso. Quanto è importante il silenzio, no? Sì. L'ascolto silenzioso di se stesso, perché anche i pensieri, vedi Pino, i pensieri cosa sono? Parole a voce bassa che diciamo dentro di noi. E quante volte questi pensieri diventano lame acuminate che ci aggrediscono, quando ci diciamo non vai bene, non sta andando bene, no? Hai sbagliato. No? E invece dovremmo avere il coraggio di accarezzarci di più con la voce, perché la voce è una carezza dentro di noi. Guarda, io punto tutto su quello, perché poi quando accendo la luce, a differenza degli antichi romani, mia moglie vede il corpo e lì cominciano i primi problemi. Io perché, no, perché non fai un'applicazione Morelli? Perché aiuta. Cioè, Raffaele, tu in pochissimo tempo riesci a far svoltare la giornata, la mattina, una persona, un professionista. È proprio la sintesi meravigliosa di una persona. Cioè, l'applicazione Morelli sul telefonino, uno clicca nei momenti di difficoltà. E poi l'applicazione ovviamente si suddivide in vari link. Ovviamente c'è la psiche, c'è il sesso, c'è il lavoro, c'è la tristezza, c'è l'esaltazione del sé. E, insomma, e tu riesci a dare questi consigli meravigliosi. Troppo gentile. No. Sai quando ai bambini dicono mamma raccontami una fiaba, no? Mm-hmm. E la mamma la racconta magari così un po' assonnata, un po' stanca, no? E distratta, come dici tu. Allora i bambini dicono no mamma raccontamela bene, vogliono che ci sia un'emozione come faresti tu che sei oltre che un grande attore, un grande doppiatore, no? Mm-hmm, ci vuole grazie. La voce giusta, no? Per le emozioni giuste, la voce della paura, c'era una volta una strega, no? Certo. La voce della dolcezza, la voce della principessa, quante voci siamo noi? E dovremmo ricordarci che una delle poche cose che sappiamo nel cervello, che sappiamo pochissimo, anzi più passa il tempo più ci accorgiamo di sapere sempre meno, ma una cosa che sappiamo è che più voci abbiamo, più personaggi vivono dentro di noi, più stiamo meglio. Cioè se siamo sempre gli stessi che la pensano allo stesso modo, che dicono le stesse cose, sai da cosa si capisce un uomo che invecchia? Dal fatto che ripete sempre le stesse cose e parla del passato. Ecco, ecco, mi hai detto una cosa che praticamente mi hanno detto ieri uno dei miei figli, ha detto papà me l'hai detto 3 volte, questo significa che sto invecchiando? No, sai cos'è che con i figli c'è un capitolo a parte. Ecco, perché, grazie. Ti ricordi quando i nostri padri, una volta che erano meno liberali, dicevano adesso dobbiamo parlare, no? Sì, e noi ci veniva la paura, no? Perché sì. Poi cosa ci dicevano? Hai studiato? Fai il bravo con la mamma? Esatto. No? Ci dicevano le stesse cose, no? E questo ci rivela come quando vogliamo essere bravi genitori, i noi ci ripetiamo, no? Ripetiamo, dai, papà me l'hai già detto tre volte però. Esatto. Per cui tutte queste voci, Raffaele, non è bipolarismo, tripolarismo, insomma, uno deve averle queste, non deve sentirle queste voci, deve utilizzarle quelle voci. Se le sente, allora è pericoloso, quello. No, ricordarsi che siamo tante voci, tante cose, e che dobbiamo avere con noi non l'idea della perfezione, ma l'idea del completamento, di far stare insieme la rabbia, la paura, la tristezza, la gelosia, l'invidia, tutte dentro di noi, perché noi siamo tante voci e tutte le voci hanno il diritto di esistere. E la salute dipende dal fatto di far stare insieme anche voci differenti, con suoni differenti, con percorsi differenti. Perfetto. La nostra trasmissione, ovviamente, si sa, questo è un viaggio intorno alla voce. Oggi il tema era la sessualità nella voce, ma è bello parlare della voce in tutte le sue declinazioni possibili e immaginabili, anche perché veramente io intanto ringrazio veramente tutti quelli che ci hanno reso primi come podcast e come episodi più scaricati della settimana. È una bellissima soddisfazione, perché abbiamo cominciato da 2 mesi, una volta a settimana, e vedere che ci sono così tante persone che si sono affezionate a questo viaggio straordinario, sarà che è una bellissima novità. Mi piace moltissimo questo viaggio che facciamo ogni domenica con persone che vanno veramente dappertutto, da Giorgio Albertazzi a Raffaele Morelli, a tantissime persone, ai doppiatori, agli attori, e mi piace molto accompagnarvi in questo viaggio. Raffaele, ti chiedo 2 minuti di pausa per ovviamente la pubblicità, torniamo con te per poi salutarti, ovviamente, perché so quante cose da fare, ma ancora altri 10 minuti te li posso rubare, vero? Ma certo, volentieri, molto volentieri. Dalla voce eri sincero. Signori, Voice Anatomy è appena cominciata, tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Voice Anatomy. Bentornati, signori, siamo stati rapidi come promesso, sono qui in diretta da Radio 24, sono le 14:46:40, assolutamente in diretta per questo viaggio intorno alla voce in tutte le sue declinazioni, in tutti i suoi meandri. Il primo grande ospite di oggi, ma anche oggi si alterneranno dei nomi straordinari intorno a questi microfoni o intorno al loro telefono in diretta con voi, avevamo poco fa Raffaele Morelli, abbiamo ancora, lo stiamo possedendo Raffaele Morelli, che ci sta regalando qualche bellissima perla come suo solito intorno alla voce. Il tema è la sessualità, ma abbiamo navigato ovviamente in tutti i meandri anche della psiche, d'accordo anche con l'utilizzo della voce. Durante l'intimità, caro Raffaele, come cambia la voce a secondo se si è uomo o donna? Insomma, no? Ma guarda, le donne sono l'essere più riservato della terra. Quando un uomo, per esempio, ha letto, le ha fatto impazzire, magari il giorno dopo, dai, ti ricordi cosa abbiamo fatto? Le donne non vogliono più parlarne. Ah, perché? Perché rientrano nella riservatezza, non vogliono parlare del regno della notte, delle parole della notte, dei suoni della notte. E questo fa capire la ricchezza del femminile, che è capace di vivere più versanti insieme. Una donna alla voce della mamma e madre, una donna alla voce della donna che ha letto fa impazzire, una donna sa pregare, una donna sa fare l'infermiera, una donna sa cucinare. Ci sono suoni differenti, e le donne lo sanno. Gli uomini invece, noi uomini no, noi nel sesso cerchiamo più il possesso, il dominio, la forza, e quindi i nostri suoni. Però le donne adorano i suoni dell'uomo, che diventano dolci, che anche nelle cose dell'amore passano verso la tenerezza, perché non dobbiamo mai dimenticare che il suono che mettiamo con la lingua, il suono, il suono che tocca, tocca l'orecchio e lo penetra, no? Quindi il suono viene dentro di noi e vive dentro di noi, e quindi il suono dell'Eros, che è un suono misterioso, la grande favola dell'Occidente, è la favola di amore e psiche, dove Eros, il sistema del mondo, le dice: guarda psiche, la più bella di tutte le donne, io ti farò impazzire, ma un patto, che tu non veda mai il mio volto. E lei tradisce il patto e cominceranno una serie di peripezie. Ma questo è il segreto del suono dell'amore, che è un suono che viene dall'essere sconosciuto che c'è in noi, e come tale è un suono misterioso, senza volto. Non possiamo dire letto delle parole consolidate, affettate, artificiali. ogni volta sono parole nuove, le parole che ho detto lei forse non le ha detto nessuno e viceversa. Certo, quello è importante, utilizzare sempre una musica nuova, una parola nuova, un tipo di vocalità diversa, anche se poi insomma uno replica anche un po' se stesso, ma l'importante è essere veri, anche perché poi una donna se ne accorge subito. Insomma, tu hai fatto un panorama che mette la donna in risalto rispetto a noi, che siamo molto più carnali da quel punto di vista. La voce della donna è più sul piacere, più sui respiri, è più su un gradimento, un godimento. Un uomo è un po' più carnale, un po' più presente, un po' più forte. Ma poi ci sono i problemi legati psicologici. Dicono Pino mi è entrato nella mente. Ecco, capisci? Un uomo dice qualcos'altro. Che si entra e si esce dappertutto nella vita, e l'importante è farlo con una frequenza degna e in un modo degno. Raffaele, scusa la mia laicità, ovviamente tu mi conosci perfettamente, devo tradurre ogni tanto in maniera più semplice un discorso già molto semplice. Comunque, ma ci sono dei problemi poi psicologici ovviamente legati alla sessualità. Uno se ne accorge in certi momenti, rispetto anche alla voce, non solo alla fisicità in quel momento, ma è la voce che tradisce qualche problema. Quando sorge la difficoltà sessuale, sorge sempre perché o con noi stessi stiamo sbagliando la relazione, o perché stiamo con la donna sbagliata o con l'uomo sbagliato, perché ne parlavo qualche giorno fa con dei colleghi di psichiatri, no? L'eiaculazione precoce, per esempio. Sì, non mi riguarda, però parliamone tranquillamente, Raffaele. No, è il desiderio di far finire il più fretta possibile il rapporto, no? Sì. E quindi in qualche modo è come se tu volessi uscire da quella relazione, no? E ci sono persone che hanno l'eiaculazione precoce magari con una partner, e con un'altra invece sono una grande virilità. Questo per dire come in qualche modo la relazione, le parole, per esempio chi soffre di eiaculazione precoce sta spesso una donna molto gente, molto dura, e quando letto lei gli dice dai sei pronto, incomincia lui ad avere un calo dell'erezione. Eccolo lei. Parole da non usare durante il rapporto da parte di voi donne: caro sei pronto, questa è da eliminare assolutamente. Sì, quello pone in una dimensione. Le parole del gelo uccidono il maschile. Sì, attento, fermati un attimo perché sentiamo certe volte un po' il codice fiscale, Raffaele, so che ti stai muovendo. L'ultimo concetto è importante, perché stiamo dando il vademecum dell'uomo perfetto, quell'uomo che potrebbe salvarsi durante un rapporto. Anche quello è legato alla parola, alla voce della parte, perché poi siamo noi quelli che subiamo di più da quel punto di vista, dalla voce della donna. Basta che lei dica allora, ecco, già quello può creare. E senti, invece, che ruolo può avere la voce nel tradimento? Come cambia? Cosa si riesce a percepire da quel punto di vista, invece? Guarda, se si analizzano i sondaggi, per quanti sondaggi possono valere, le donne tradiscono nel 75-80% per casi perché vogliono ridere, vogliono divertirsi, ecco. Perché non ridono più, no? Certo. Quindi è la voce. Ci sono due riferimenti importanti, la cena e il ridere. Sì. Il sesso ha bisogno del cibo, che lo riporta a contatto con la terra, con la materia, e poi bisogna del gioco, perché il ridere, il gioco ci porta nel senza tempo, ci fa sentire bambini, e allora ci porta quella la cosa più importante dell'eros, che è la spensieratezza. No? Tu sai che sono un eroe in questo, allora, tu stai descrivendo me. Uno che... Guarda, io posso, no? Agli ascoltatori voglio raccontare questa cosa, che una sera con Pino ci siamo trovati, non so se ti ricordi, in un ristorante di Viale Mattini. Si può dire, vero? Sì, si può dire. Si può dire. Pino ha incominciato a far ridere prima quelli che erano al suo tavolo, tra cui me, e poi si è formato un capannello di persone che fino alle 3:30 stavano lì ad ascoltarlo. Ma poi è finita lì, vero? Che è stata una delle serate più gioiose della mia vita. Poi è finita lì, non è continuata dopo il cibo, l'eros, però. No, mi sono fermato. L'eros non c'è stato. Non c'è stato niente fra noi, insomma. No. Ecco, dobbiamo raccontarlo. Ma io sì, cerco di vivere, non voglio utilizzare la parola io, da quando ovviamente lavorando per radio mi interfaccio a voi ed è giusto che io ascolti, però da questo punto di vista mi sento veramente protagonista, nel senso posso garantirvi che far sorridere la propria metà è la cosa più importante, rendere unici i momenti più stupidi della sessualità, sia vocalmente che fisicamente, ed è quello che lega di più la coppia, perché tu ti accorgi dell'altra persona quanto vale prima e dopo il rapporto, perché all'interno, insomma, più o meno, chi più o meno bravo c'è, ma quei momenti quando l'uomo sta in calzini è lì che devi tirar fuori il meglio di te.

Ti senti bene? Oddio. Oddio. No. Oh, che meraviglia. Sì, sì, sì, così. Per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, era la scena bellissima di Ariti Presento Selli, visto che oggi parliamo della voce, ma come espressione sensuale e sessuale, la doppiatrice qui era la nostra cara amica Silvia Pepitoni, mentre l'indimenticato Tonino Accolla era la voce di Billy Crystal. Allora, con questo godimento siamo arrivati al termine di questo blocco, ma Giuppi rimarrà con noi, anche Diego e Basta sarà qui come testimone oculare di questo momento di Voice Anatomy. Non so se usciamo con un contributo di Giuppi, allora ce l'ascoltiamo e poi vi dirò da che film è tratto. Rimanete con noi. Ti dimentichi che non stiamo più insieme? Nemmeno una speranzina Ina? Nemmeno Ina Ina. Ma ti prometto che la prossima volta non manderò tutto a puttane, mamma. Che linguaggio, tesoro? Scusa. La prossima volta non manderò tutto a puttane, mammina. Io ti maledico, Esteban. E ti condanno alla solitudine. La tua anima non vedrà più la luce. E tu morirai nella paura, pieno di rimorsi. Vattene. Per il bene di Clara. Sappi che tra noi due non è mai successo quello che hai sempre immaginato. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta. Voice Anatomy. Perché la mia mente è come una giungla selvaggia piena di pensieri senza un filo logico? Scrivo una lettera perché devo, non so scrivere. Mi metto l'abito verde, preferisco quello blu, ma quello blu è ancora in tintoria. I tedeschi avevano l'uniforme grigio, non blu. Casa Blanca, bellissimo film. Casa Blanca, Casa Bianca, la casa di Bush, le auto ibride. Devo comprare un'auto ibrida, una bicicletta, bicicletta, monociclo, acrobato, domatore, serpente, scimmia, ambra, baci, cicocò, triscimmiette e solcomò. Buonanotte, mamma. No! Smettila di dirlo! Smettila di dirlo! Io non sono tua madre! E arriva l'ennesimo bambino! Tu non sei mio figlio! Ma che bello! Qui parlavamo anche, ovviamente ci siamo salutati nel blocco precedente, ascoltando sempre la voce di Giupiz, sempre qui al mio fianco, e era sempre il diario di Bridget Jones, e l'altro era La casa degli spiriti, tratto dal romanzo di Isabel Allende. Bello. Invece siamo tornati in diretta su Voice Anatomy con una direzione di doppiaggio bellissima, quale Changeling. Devo dire Changeling con Angelina Jolie, e devo dire ringrazio anche di avermi chiamato, per aver fatto il poliziotto, il capo della polizia in quel film bellissimo drammatico, durissimo. Ma tu hai bei ricordi di tutto questo? Sì, molto. Come direttrice ti piace molto? Come direttrice molto, non voglio sempre parlare di mio padre, però siccome Changeling era un lavoro difficile, molto duro, e quindi mi ricordo che mio padre mi disse: mettiti una maschera quando vai in sala, allontanati da tutto quello che devi fare, ma stai accanto al prodotto, a questa cosa, con una distanza, e vedrai che riuscirai a entrare in empatia con gli attori. Che era un film durissimo, difficilissimo. Beh, violenza sui bambini, esatto, io per chi è madre, soffrivo, insomma, però mi sono come distaccata stando dentro, e quindi poi sono riuscita, credo, un ottimo lavoro, a stare insieme agli attori, perché quando dirigi non puoi sentire il distacco, devi stare molto molto vicino agli attori, perché il leggio è faticoso, è bellissimo stare al leggio, ma è anche molto duro. E quindi mi piace dirigere stando un po' lì con loro. Sì, non c'è il transfert col film, ma c'è un transfert col doppiatore, con l'attore, sì, che sta al leggio. Sì. E quello ti permette anche. Vicino a me, alla mia destra, c'è anche Diego e basta, grandissimo. Vocologo, ma straordinario, oh, un medico, chirurgo, musicista. Poi solamente a raccontare chi è, dopo perderemo un blocco intero e dovremo entrare poi in pubblicità, purtroppo. Lui mi dice di tagliare. Taglia, Pino, taglia. No, non ma taglia poi col lavoro tuo, poi spiegheremo il motivo e il perché di questa similitudine nel taglio. Tu sei un grande studioso di voci, vero? Che mi piace molto. Ma sì, tu riesci a staccare quando senti una persona, come quelli che sono esperti di comunicazione non verbale o di programmazione neurolinguistica, cioè riesci a parlare con una persona senza studiarlo, oppure viene ormai di default il fatto di sentirla e capire? Sai, scatta. C'è chi dice che sono gli occhi lo specchio dell'anima. Io credo che la voce sia uno degli elementi più costruttivi ma anche distruttivi di una persona. Ti capita di giudicare direttamente dalla voce una persona? La faccio a tutte e due questa domanda. Io tantissimo. Spessissimo. Il mio grande insegnante, il professor Schindler, diceva: tu devi valutare una persona da quando entra dalla porta, da come ti dice buongiorno. Eccolo là. Piuttosto che buongiorno. Pure buongiorno. Che esagerato. Come sì. I rappresentanti. Sì, che esattamente. No. Buongiorno e tu vai, arrivederci, e chiudi la porta in faccia direttamente. Così. Questo è importante. Sì. La voce ogni tanto diventa parte preponderante della vita. Per cui se uno parla in quel modo è anche quella persona? Cioè la voce diventa lo specchio reale? Non è detto. Tu non sai che la voce è il grande lago della falsità e della verità nella vita reale e nella vita artistica. Però uno riesce a riconoscere. Ed è anche l'ultima cosa che invecchia, quasi. Sì, ed è l'ultima cosa che invecchia, ma soprattutto non invecchiano le emozioni che la voce porta dietro. E infatti è difficile, quando noi doppiamo, questo è bellissimo, quando noi doppiamo o recitiamo la parte di una persona più grande di noi, non è facile, no. Perché le emozioni sono quelle, la voce c'è un po' più di aria in tutto. Le intenzioni sono diverse. Sono diverse, ma tu maturi le intenzioni, sì. La tua vita artistica cresce assieme a quelle emozioni che tu riesci a portare, diventi più bravo, più tagliente, più efficace ed efficiente. Ed efficiente. Tu hai guardato e detto deficiente. No. Non era proprio c'è una pausa che lui, cioè se eravamo al doppiaggio bisogna rifarla. È questa. Vero, però deficiente. Io lo uso spesso, efficace ed efficiente. Solamente quando mandi una persona che è deficiente, tu dici no, ho detto efficiente. Vedi i tratti sovrastrutturali della voce, vedi? I tratti sovrastrutturali della voce. Bellissimo. Tu pensa che è bello in sala tutto il giorno. In sala avere una persona che è un consulente vocale pazzesco, a noi servirebbe una cosa del genere. Consulente psicosomatico, cioè lui e Raffaele Morelli vicini. Fantastico. Consulente psicosessuale della voce. Perché poi sì, la voce è l'espressione della sessualità. Insomma, signori, parliamoci chiaro: il mondo è mosso dalla sessualità. Non dico che uno chiede un caffè e vuole andare a letto col cameriere però o con la cameriera. Ma la si sente. Certo. Prima ma è proprio quella la bellezza di chi sa costruire le voci, non far vedere che è una richiesta senza fondo, mentre invece senza fondamento, mentre invece chi ha l'intenzione di fare le cose con la voce si sente profondissimamente e si sente anche lontanissimo, questo è importante. Cioè quando la voce porta, non porta solo il segnale vocale, il segnale semantico, ma porta soprattutto tutto quello che c'è dietro, cioè la vera intenzione di quello che uno vuole fare, l'intenzione comunicativa. Signori, se volete partecipare, mi stanno dicendo in questo momento che sì, gli SMS non funzionano, però avete la possibilità su Facebook, il nostro Facebook Voice Anatomy Radio 24, di poter provare lì a gettare qualche domanda e qualche curiosità, ovviamente anche con il Twitter @ Voice Anatomy con la Y, ovviamente, e basta, senza punti, com, eccetera. Va bene, allora, il nostro amico Diego e basta, che poi conosceremo più approfonditamente, e dall'altra parte la nostra amica Giuppi Izzo. Io ho detto all'inizio che questa trasmissione prende un po' il titolo assonante con Grey's Anatomy, il protagonista. Meraviglia. Che tu doppi da quanti anni ormai? 12. Dodicesima stagione equivalgono a 14 anni. Dove ho avuto la fortuna di recitare le parole di Shonda Rhimes, che è una grandissima sceneggiatrice. Perché poi sì. Grace è quello che si dice, è quello che viene fuori dalla personalità di ognuno. Quindi ogni volta quando ho le voci narranti imparo qualcosa. Quanto ti riconosci là dentro?

che gli emiliani conquistano ai danni di una Lazio disordinata. Ma perché quest'articolo? E senza ragazzi? Mai la concentrazione giusta. Ecco, la differenza la fa proprio la testa. Il Sassuolo è in partita sin dall'inizio. Sa anche soffrire quando serve e sfrutta le occasioni che gli capitano. La Lazio tiene molta palla, ma si perde troppo nel palleggio e finalizza poco. Dio, mai una sconfitta fu così sensuale. Vai avanti, ti prego. Qualche errore lo fa anche il Sassuolo, ma i padroni di casa non sbagliano le cose importanti. Nella ripresa Pioli prova a sferzare la squadra, inserendo un altro attaccante. Se fossi entrato tu negli spogliatoi a fine del primo tempo sarebbe cambiato. Ma non cambia la falsa riga purtroppo dell'incontro. E il Sassuolo, cerco di dire tutte le S perfette perché in realtà ce l'ho bruttissimo, che già nella prima frazione aveva sfruttato male almeno tre invitanti contropiede, non perdona. Ci sarebbe ancora tutto il tempo per completare la rimonta, ma la Lazio si squaglia. Yeah. Anzi, è il Sassuolo a sfiorare la terza rete e i padroni di casa neppure incappano in altre distrazioni. È fantastico. È bellissimo, non lo sapevo. Il Sassuolo, ma bellissimo. Ecco, questo è proprio il tipico esempio di cosa è Boys Anatomy da questo punto di vista. Beh, una sconfitta così io me la auguro tutte le domeniche, però mi auguro anche che tu possa entrare negli spogliatoi alla fine del primo tempo e okay, cercare di dare una sterzata, una sferzata. Bene, ragazzi, pronti. A meno che la squadra, vediamo oggi come andrà, ma giocando alle 18 le romane giocano alle 18 e poi i nostri amici Pardo & Company se ne occuperanno dopo nella trasmissione, tutti convocati, che ovviamente è il pane per i loro denti. È un po' bisogna prendersi in giro perché la sessualità è quella così, no, insomma. Però lì c'era un gioco. Un po' d'aria c'era, quell'aria c'era che c'era l'aria, hai ragione, la quest'aria la devo rivalutare, Ma è messa così e dico aria, se è soltanto aria così. Quindi bisogna farsi aprire un phon al leggio, qualcosa. Guarda, mi massacherà la volta che starò al leggio. Adesso la prossima scena d'amore che farà Pino, io mi preparerò con dei phon tiepidi, ecco, in sala. La pagherò, perché poi all'ultimo, ecco, io incontrerò queste persone e la pagherò cara. Esatto. Se loro non accendo il phon, ve lo prometto. Se non sarò un bravo padrone di casa, io pagherò sulla mia pelle. Com'era, Diego? Bella, molto bella, molto bella. Grazie. Soffiata, credibile. Vedi? Molto varia come colore, la okay, voce colorata è la cosa, ripeto, la cosa più che bella. Bello. La prosodia è la melodia della voce parlata. La prosodia, non... io imparo ogni giorno una parola la nuova. La prosodia. Una cosa che noi che dovremmo fare tutti i giorni, imparare una parola nuova. Io mi metto e ammetto i miei limiti, per cui dico prosodia, mi spieghi prosodia? La prosodia. Il suono di prosodia è meraviglioso. Insomma, sono tutti termini greci. Prosodia è la voce parlata quando canta. Tu non te ne rendi conto, ma tu canti quando parli. Sì. Certo. Ed è la cosa più bella questa. Volevo dirtelo io di questa prosodia, ma... Non ci sei riuscito, non perché non sapevi fatta cosa volesse dire. Sì, lo ammetto, ormai l'ho detto. Però diciamo bene che la prosodia sta alla voce parlata come la melodia sta alla voce cantata. Bellissimo. Questo. Sì, questo lo sapevo perfettamente, Diego, te l'ho detto io poco fa. No, assolutamente corretto, ho assorbito il concetto di Pino in modo assolutamente perfetto. Però è bella la prosodia. Sì. La prosodia, cioè, non giochiamocela insieme nei stessi giorni che io ci io guarda che te lo dico, mi serve un po' più di prosodia. Sì, no, usala con tranquillità, è vera, la verità. Dillo un giorno qualche nostro collega, scusa, prosodia, come si dice? È bello il concetto. Sì, ma abbiamo una telefonata e allora vediamo chi c'è. Giovanni da Ragusa. Buona domenica, Pinuccio. Caro Giovanni, buona domenica a te, allora, da Ragusa, vicino a Donna Fugata, se non sbaglio, al castello di Donna Fugata. Sono intervenuto nella domenica in cui era ospite Maria Pia Di Meo. Buon gustaio. Allora, certo che dura oggi, hai di fronte una concorrenza spietata, sì. Juventus, niente meno. Sì. Oggi gioco nel pomeriggio, lo sai, sì. Ah sì, gioca il pomeriggio, sì, io cerco di... Le squadre più amate d'Italia, che ci vuoi fare? Cerco di essere asettico la domenica, perché altrimenti... No, la Lazietta gioca alle 18. La Laziona, va bene. Dunque, volevo sapere da Giubbizzo se c'è un'attrice del passato che avrebbe voluto doppiare. Questa è la prima domanda. Poi una considerazione. Considero Giuppi la voce più bella in assoluto della famiglia Izzo. Eccolo là. E questa è una cosa da risolvere in famiglia stasera, ecco, dopo che hanno ascoltato la trasmissione. Va bene, caro Giovanni. Ti ringrazio, ascolta la risposta della nostra benamata e continua a seguirci. Grazie davvero. Grazie. E, allora, se c'è un'attrice... No, io sono soddisfatta di quello che ho fatto. Quale voce potrebbe stare? Però è interessante questa domanda. Io, per esempio, su chi vedete le attrici del passato, anni 50, magari anni 60? Parlando delle Audrey Hepburn, Katharine Hepburn, Marilyn Monroe. Beh, magari, però non so, la mia voce non credo che... Non ti ci metteresti sopra? Non mi ci metterei su Marilyn Monroe, no. Però ci vorrei provare. Hai capito? Beh, però dai, mi piacerebbe provarci. C'è anche un'altra domanda, poi parlerai con le tue sorelle di questa preferenza di Giovanni. Vi sto ascoltando in diretta, Giù Pizzo, sei semplicemente meravigliosa. Grazie, è bellissimo ascoltare Sera Aragorn che parla la dolce Bridget Jones. Lei è Veronica Fanelli, grazie, grazie davvero. Grazie di ascoltarci. Allora, stiamo arrivando alla fine anche di questo blocco, manca un minuto e mezzo, e abbiamo già pronto dall'altra parte un ragazzo che si cimenterà di fronte a te in un provino, perché noi ogni settimana lasciamo ovviamente questo numero di telefono dove laici e non si cimentano in un monologo, in qualcosa, ma non è detto che fa, anzi la maggior parte di loro non fa l'attore, non fa il doppiatore, ma si divertono tantissimo a lasciare questi messaggi, e poi noi scegliamo uno / due persone che possono raggiungerci e parlare con i loro idoli. Lui, quando ha saputo che c'eri tu, ha detto no, devo venire, ma pensa da dove è venuto per stare qui di fronte a te, da Padova. Wow. Cioè, per cui insomma, no, ragazzi, il nostro anche Diego è venuto da lontano, no, lontanissimo, però da Torino, no? Torino. Da Torino, poi dovrà essere a Lugano stasera, per cui per essere presente anche lui ha navigato molto, ha saputo della tua presenza e ha saputo anche della presenza più tardi di una delle voci sensuali, anche per lavoro, che sarà ospite l'amica Eva Enger più tardi, pensate, sarà con noi simpaticamente al telefono dalla lontana Budapest. Vogliamo ascoltare una delle voci, a proposito abbiamo parlato di Marilyn Monroe, e ascoltiamola in un momento importante della sua vita, quando dedica la canzone Happy Birthday al presidente John Kennedy, e chissà quant'altro è successo fra loro. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Voice Anatomy. Siamo stati rapidissimi dopo un po' di notizie sul traffico, siamo tornati qui in diretta dagli studi di Roma di Radio 24, il nostro numero di telefono per partecipare è 800 24 00 24, abbiamo detto prima con l'amica Giù Pizzo, che qui si alternano ogni domenica dei radioascoltatori affezionati alla voce, non attori magari, che si cimentano in qualche monologo, e noi prontamente cerchiamo di chiamare quelli che hanno dato magari il meglio di sé attraverso la nostra segreteria telefonica. E il numero ve lo ricordo ancora, perché non è mai tra i fogli che ho sulla scrivania, ovviamente, eccolo qua, 828 12 12, è proprio la nostra la voice box, come la chiamiamo, e ci ha raggiunti dalla lontana Padova un amico emozionato da parecchi giorni, perché quando l'abbiamo coinvolto non ci credeva, era molto felice di partecipare, soprattutto c'era la grande Giù Pizzo, proprio è stata la tua, lui lo presento, lui è Emiliano Valdemarca, che sembra un nome di Harry Potter, sembra un personaggio di Harry Potter, 39 anni, romano, ma vive a Padova, conduce una trasmissione radiofonica, ah sei un radiofonico, che si chiama Onda Metal. Yes. Sei un metallaro rocchettaro di quelli. Yes. Ti piace la voce quella. Au! Quelli come fanno a non perdere la voce, solo Dio lo sa, ma lo saprà anche Diego e basta. Dopo glielo chiederò, perché riescono a fare dei concerti strappandosi le corde vocali, le budella. No, lui mi facendo no dall'altra parte, perché ha lasciato il posto al nostro amico Emiliano. E sei appassionato di doppiaggio, per cui di recitazione, perché il doppiaggio no, esatto, è una traduzione, ma è recitazione allo stato puro. Anzi, secondo me è più complicato proprio della recitazione pura e semplice, perché devi andare sul corpo di un altro, per cui con i suoi tempi, i suoi respiri e la sue, i suoi colori. Che cosa hai fatto in segreteria? Cosa hai combinato? Cosa hai letto? Cosa, in cosa ti sei cimentato? Ma innanzitutto ciao a tutti. Ciao. Ecco, ma giusto, hai sentito gli inutile. Innanzitutto ciao a tutti. Siete inutile. In no, vabbè, inutile dirvi che sono chiaramente molto emozionato, perché cioè, se non lo fossi non sarei umano, quindi. Ma ovviamente. Guarda, anch'io prima di cominciare la trasmissione, prima di andare in scena, prima di fare un turno tutti qualsiasi, noi siamo sempre. Se finisce quel colore che è l'emozione, è finito quello che noi facciamo, è finito tutto. Papà mi ha sempre detto di cercare di utilizzare. Oddio, sembravi Forrest Gump all'inizio. Mio... Papà dice, no, mamma dice. Carità. Mi ha sempre detto di cercare di utilizzare l'emozione a proprio vantaggio, quindi cercare di sfruttarla anziché esserne danneggiati. Un po' non implodere, è il trucco, che a parole è semplicissimo, eppure nei fatti è difficilissimo. È difficile. Diciamo che sì, ci stiamo ancora provando, ma eh sì, perché implodi, no? Ma direi sei che emozionato, voi due ci siete riusciti benissimo. Io no, ma blefiamo la grande, me ne tiro fuori, insomma, blefiamo la grande, tranquillo Emiliano. No, io ho portato un pezzo, un estratto di un film di cui magari vorrei dare un piccolo accenno di trama, così certo, magari gli ascoltatori certo capiscono anche. Beh, un pochino conosciuto meglio, magari, no? Io credo di sì, però sai, qual è, ognuno, si chiama Lo Spaccacuori. Beh, più che tra l'altro è stato anche, ho visto poi che è stato anche prodotto dalla società delle in casa lì, quindi quelli Adam Sandler o Ben Stiller. Ben Stiller, Ben Stiller. Molto velocemente, Ben Stiller è in viaggio di nozze con la sua nuova moglie, che ha sposato in pochissimo tempo, quindi ha deciso di sposarla comunque anche non conoscendola bene. Si accorge durante questo viaggio di nozze in un resort in Messico che non è propriamente la persona giusta che ha sposato, quindi è un pochino sfasato. All'interno di questo resort conosce un'altra ragazza evidentemente single con cui spende un'intera giornata. Quando torna poi in camera di albergo deve in qualche modo motivare o spiegare alla moglie, che nel frattempo è rimasta a casa per via della scottatura solare eccetera eccetera, che ha fatto delle cose in realtà produttive, cioè ha incontrato un personaggio famoso per la sua azienda di abbigliamento sportivo eccetera eccetera, e deve anche giustificare il fatto che andrà di nuovo via perché ha concordato con questa ragazza di cenare fuori, quindi, per cui, diciamo, e quindi un comincia traditore, una serie un traditore di che... cavolate una dietro l'altra appositamente, quindi è anche un po' velocizzato alla John Belushi in Blues Brothers quando incontra lei nel sotterraneo, insomma. Appositamente pompate proprio perché è una cavolata dietro l'altra, quindi e la moglie deve in qualche modo sorbirsi questa, okay, questa valanga di baggianate che lui racconta per giustificare il fatto che in realtà si è visto con un'altra donna. Bene, c'è un preambolo, niente male, è finito il blocco, dobbiamo salutarci, no scherzo. Ecco, perfetto, grazie a tutti, è stato un piacere. Abbiamo 10 minuti ancora prima di stare ancora in linea alla pubblicità e poi torniamo sempre molto rapidamente. Vuoi musica, ma sei da solo, è un monologo oppure c'è... Guarda, io non vorrei fare lo sfrontato, però questo è parte di un discorso naturalmente che ha botta e risposta. Ah, ecco, quindi, perché hai dato le fotocopie a Giuffi. Io esatto, se io ci fosse... Guarda, io guarda per non sapere leggere e scrivere, come si suol dire, io ho dato... se c'è la risposta anche della qui volentieri presente grandissima vai Giuppi, anche perché se faccio una figuraccia la faccio a modo, non è che la faccio due, cioè. Ti piace vincere facile però così dai va bene. Beh, allora quindi vediamo, lui rientra in casa, rientra nella camera d'albergo, anche il narratore capito dove, sì, dove trova. Fantastico. È per gli ascoltatori così capiscono meglio, bello. Ok. Ciao tesoro, Orso Eddie è tornato e sapessi che storia devo raccontarti. Lo spero, visto che sei stato via tutto il giorno. Tesoro, ma indovina che è successo, sono sceso di sotto a prenderti la colazione e chi ti incontro così all'improvviso? Chi? Yvonne Chouinard. Chi? Yvonne Chouinard, il pezzo grosso di Patagonia. E allora? E allora, dai tesoro, Patagonia è il mio più grande fornitore, io vendo tutta la loro linea, lo sai? E Yvonne e i suoi amici andavano a giocare a golf, acqua? No. Mi hanno chiesto se volevo andarci ed io non potevo dire di no, no? Giusto? Ma non avevi le mazze da golf? Ah, ho usato quelle di dimostrazione, le TaylorMade. Buone, hanno aggiunto almeno 30 yard al mio drive. Chi erano gli amici? Ah, un paio di ragazzi. Lenny di Akron, un assicuratore, un po' rigido ma un buon golfista, e il rappresentante locale di Patagonia. Come si chiama? Si chiama Sei Dita. Sei Dita? Sì, 6 dita amputate, ne ha perse 4 scalando l'Everest. L'ha fatto senza ossigeno, un po' strano. A proposito, sorprendente, me l'hai fatto vedere. Ancora le dita esterne, ha perso quelle in mezzo, ma ancora i punti di equilibrio, che è quello che serve. Anzi, dice che ha migliorato il suo swing perché batte direttamente sulla palla e c'è meno resistenza. Beh, è uno forte. Eddie, da quando una partita di golf dura 7 ore? Beh, eravamo dietro una coppia di coreani e quindi... Ma senti, alla fine per me è stato un vantaggio perché abbiamo potuto parlare di lavoro e se le cose andranno come credo che andranno, si parla di prezzi all'ingrosso, eccezionale per il negozio! Perché non mi hai chiamata? Ero preoccupata da morire per te! Tesoro, l'ho fatto, ma se ti allontani 1 miglio da qui è come cercare campo sulla luna! Ma che fai? Esci di nuovo? Leila, te l'ho appena detto, li porto a cena fuori fra 5 minuti! E quando me l'hai detto? Ok... Prima di tutto, queste persone, voglio spiegarti una cosa, queste persone, ok, sono calde, questa è un'opportunità, capisci? È il capo di un'azienda incredibilmente importante di abbigliamento sportivo internazionale, capito? Hanno appoccato, adesso devo arpionarli, tirarli a bordo e sbatterli a morte. Batti il ferro, tesoro, batti il ferro, non posso lasciare che si ammossino, solo l'entusiasmo che ho creato durante la giornata evapora. Comunque, non dovrebbe volerci molto perché hanno cominciato a mandar giù piccherini circa 2 ore fa e così darebbero retta a qualunque cosa dicesse chiunque. E quindi andrà bene. Bravo. Beh, una dizione spigliativa, sì, ma una voce bravissima, particolare, caratterista. Bravo, poi no? Molto naturale, molto grazie, bello, grazie. Complimenti. Beh, hai capito, hai detto bene. No, bene davvero, sono quelle voci. Che assomiglia a dei colleghi, tutte queste cose così giovane e brillanti. Un po' carattere. Sì, carattere, un carattere da questo punto di vista, non è male. Voce giovane, leggera. Sì. In realtà avevo anche questo che era meno carattere. Che cos'è? 5 righe. Ah, niente, adesso proprio, vuoi proprio niente. Tornare a Roma tu, eh? Tu vuoi tornare a Roma. Beh, ma ti sei fatto un viaggio da Padova fino a qua. Quindi questa è Ezechiele 25-17, sono 5 righe. Questo è Luca Ward in Pulp Fiction. 5 righe. Diciamo Samuel Jackson. 6 righe. Sono 2 euro a riga, 12 euro. Lorde. Più 80 di gettone. No, sono meno purtroppo, meno. Poi daremo i prezzi dei doppiatori, perché dice fai doppiaggio, quanto è, capirai. Voglio ringraziare di cuore lei per essersi prestata a fare questa cosa. Sei un professionista vero, e di grande umiltà. Non lo davo per scontato, quindi per me è stato veramente fantastico. Quelli veri sono così. Ho potuto fare, grazie. Quelli grazie veri sono così. È la normalità, io dico sempre, nella vita si usa sempre, adesso uno può anche uscire un po' dai ranghi della trasmissione, che ti presentano le persone e ti dicono, guarda, ti presento Maria. No, è una brava persona. No, tu mi devi dire il contrario, perché dobbiamo essere dobbiamo essere tutte brave persone. Dovresti avvertire quella, ti presento questo, guarda, però sta attento che sai, oggi ci si stupisce quando è una brava persona qualcuno, quindi lo si sottolinea, no? Come non amo quelli che dicono quello è buono, però quando fai una stupidaggine, quando sotto sotto quello è un disgrazio. No, quello è uno buono che una volta è stato cattivo. Sennò quelli cattivi fanno sempre bella figura, che una volta su buono dice vedi quello sotto sotto è un pezzo di pane. No! Allora dobbiamo dare la linea alla pubblicità. Bene, scusami Alessandro, scusa Alessia, scusa Gaia, scusami Damiano. Ci sentiamo fra pochissimo. Voice Anatomy! Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog. Da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sanatomi. Eccoci, siamo tornati in diretta dagli studi di Radio 24 qui con Voice Anatomy. Al mio fianco, prima di salutarci, ho chiesto ancora pochi minuti all'amica Giuppi Izzo e vicino a me finalmente daremo un corpo, un nome, un cognome all'amico Diego e basta, perché è importante. Però prima, durante questa pausa, sono andato un attimo a espletare, come si fa normalmente, insomma siamo degli esseri umani, e mi è piaciuto quello che ho letto davanti a me mentre, e volevo farlo leggere a Giuppi, per favore. Ecco, grazie se me lo leggi, ma visto che il tema è la sensualità, vorrei che me lo leggessi. Si ricorda agli utenti che un utilizzo igienicamente corretto dei servizi è indice di civiltà e rispetto per il prossimo e renderà possibile una pulizia più accurata al personale di servizio. Certi della collaborazione di tutti, ringraziamo per quanto potrete fare. Ecco, questo è quello, vedete, l'eleganza di una lettura del genere ti porta ad essere molto più attento quando devi, insomma, espletare dei problemi personali. Allora, lo presento, nome e cognome, Diego Cossu, è nato a Genova, è un professore medico, musicista e scrittore. Si laurea a pieni voti in medicina e chirurgia presso l'Ateneo Genovese. Si specializza con lode e dignità di stampa in audiologia e in foniatria sotto la guida del professor Oscar Schindler presso l'Università di Torino, con una tesi sulle disfonie professionali. Ragazzi, consegue i master universitari di primo livello in vocologia artistica e in declutologia presso l'Università di Torino. Svolge attività di fonochirurgia con il professor Andrea Ricci Maccarini a Cesena. Ha compiuto parallelamente gli studi musicali di pianoforte e canto presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, perfezionandosi in canto a Milano sotto la guida del maestro Rodolfo Celletti. Ragazzi, cioè, il curriculum scientifico è una cosa pazzesca, ma soprattutto è autore dell'articolo Voce d'ormoni sessuali femminili, pubblicato sulla rivista scientifica iCare, e coautore insieme a Francesco Avanzini sul test SHI, Singing Handicap Index, primo test di autovalutazione delle disodie, disfonie nei cantanti. Vi ho detto che ha avuto sotto le sue grinfie il grande Bonovox degli U2 e l'ha salvato in quest'ultima tournée, perché non se n'è parlato che lui cadde con questa bicicletta, si ruppe qualsiasi cosa, tant'è che non riuscirà forse a suonare più la chitarra, ma riuscirà a cantare come cantava prima, grazie, me lo auguro, al professor Diego Cossu. È coautore del libro, abbiamo detto, La voce, questa cosa bellissima, di Oscar Schindler, ma soprattutto coautore del libro documentario Oltre la voce, La voce Stratos, Demetrio Stratos degli Aria, un cantante straordinario. Noi fra poco faremo una trasmissione dedicata completamente a Demetrio Stratos, perché per chi non lo conosce, gli si aprirà un mondo di fronte a quest'uomo straordinario che abbiamo perso troppo presto, per cui poi c'è un curriculum artistico, perché lui è anche un pianista, accompagnatore di classi di canto ed artista del coro del Teatro Comunale di Alessandria e del coro della Rai di Torino, ma insomma è inutile, che hai suonato a New York, a Chicago, a Filadelfia. Quanti anni hai in realtà, Cossu? Scusami, nato nel 61, appunto, ho capito, sul curriculum. Questa è la seconda vita, la prima hai cominciato molto prima. Mi parli, come se tu sei diventato un duplice curriculum, sia scientifico che artistico, e per cui sei bipolare da questo punto di vista. Sono in ottima compagnia. Sì, nel corso della tua doppia carriera hai individuato punti di connessione e di distacco fra le due materie, fra la medicina e la musica, insomma. Ma medicina e musica sono intimamente collegate. Ti faccio due esempi opposti. Uno dei più grandi organisti che abbiamo avuto è stato premio Nobel per la pace, Albert Schweitzer. È stato uno dei più grandi organisti, uno dei più grandi interpreti di Bach, ed è stato un medico che a un certo punto ha lasciato tutto e è andato a aiutare i bambini in Africa. Sì. Per questo motivo nel 1952 gli fu assegnato il premio Nobel per la pace. E lui ha continuato a suonare, è stato il precursore della musica come emblema di pace. E dalla parte opposta, con una marea di persone che non posso dire perché non ho tempo, ci vorrebbe una trasmissione solo su quello, dico Enzo Iannacci, cardiochirurgo, vero, grande cardiochirurgo e grandissimo cantante. Quindi e Roberto Vecchioni, professore di lettere, no, se non sbaglio. Esattamente, ma ce ne sono tanti che vanno a lenire alcune difficoltà della vita lavorativa l'attività musicale, vocale, musicale in generale, pianistica, e io credo che questo sia un dato che rispecchi innanzitutto il grande amore per ambedue le scienze, la medicina e l'arte. Si è medici migliori, io credo, con questa sensibilità. Io lo dico sempre, io credo di essere un discreto foniatra perché sono stato un discreto cantante e ancora adesso cerco di essere un medico migliore, cercando di essere anche un musicista migliore. E io credo che la musica sia veramente la miglior medicina dell'anima. E questo è la passione è nata prima artistica o prima quella scientifica? Ma sai, tu hai il papà genovese, no? Genova, sì. io sono nato a Genova. Origini calabresi, nato a Genova. C'è un po' di... il mio cognome Cossue, sì, che tradisce, che questa... fantastico, tradisce questa lievissima derivazione, sì, isolana. Ma, sì, sì, sì. Effettivamente sono nato e cresciuto a Genova. E a Genova noi abbiamo l'università di medicina attaccata al conservatorio. Quindi uscivo la mattina, salutavo papà e mamma. E non mi vedono più fino alla sera, io non c'ero più, e facevo la mattina da una parte e il pomeriggio dall'altra, perché io credo che la cosa più importante sia soddisfare le proprie passioni, perché la passione è quella che ti porta avanti nonostante la povertà, la fatica, il freddo, il fatto che avevi una 127, che avevi recuperato dei 17 colori in giro per tutti gli sfasciacarrozze che un giorno funzionava e 5 giorni no, però il fatto di essere davanti a un palcoscenico o l'idea di poter curare qualcuno che stava veramente male, io volevo fare il pediatra, figurati, no, io i bambini che soffrono non sono mai riuscito veramente. Ma è insopportabile. È insopportabile, parlavamo proprio prima di questa tua meravigliosa attività. Che... Va bene, te tu il protagonista. No, lo so, capito, però onore al merito chi fa quello che fai tu nelle tue condizioni, ma tu fai... degno di grandissima grazie, attenzione. Grazie, ma tu fai delle cose straordinarie, perché io voglio poi allargare, ovviamente ci vorrebbero tante trasmissioni per raccontare Diego, ma Diego fra un po' ci parlerà in maniera anche tecnico-scientifica di alcun tipo di operazioni che svolge. Io sono rimasto affascinato, abbiamo anche degli esempi, ovviamente dopo vi faremo ascoltare. Lui si occupa di una chirurgia particolare sulle corde vocali, sull'apparato proprio, proprio esperto di vocologia, per cui cambiare la voce delle persone, per esempio, è una cosa molto delicata, ma voglio parlarne più lungamente, perché adesso fra un minuto andiamo in pubblicità, se non sbaglio, per cui non voglio aprire questo link in un secondo e poi riaprirlo, voglio aprirlo direttamente dopo, che abbiamo molto più tempo per raccontarlo. Sei anche autore di questo Singing Handicap Index, ho letto, il primo test di autovalutazione delle disodie, cioè le disfonie nei cantanti. Cosa prevede questo test? Cioè, com'è? Quando tu visiti un cantante devi chiedergli cosa fa, che tipo di canto fa, gli fai una valutazione soggettiva, cioè tu quando entra dalla porta senti come parla, senti come si esprime e dai già una valutazione. Se entra così, bravo, c'è un problema. Così, è già un grossissimo problema. Esatto, grosso. Poi dai un'occhiata alle corde vocali e per ultimo, ma non ultimo di tutto, gli chiedi cosa lui pensa della propria voce. Ecco, il Singing Handicap Index è la percezione del handicap, dell'impairment o della disability, questi sono i tre parametri che usano gli statunitensi, nei confronti della propria voce, cioè come senti la tua voce. Giubbi, c'hai 2 secondi per dirgli come c'hai la voce, ma lui già te l'ha detto, però tu come percepisci la tua voce? Io certi giorni bene, certi giorni mi piace, certi giorni no. E poi è una sorella grande cantante lirica, dovresti utilizzarla, sì, però. Assolutamente. E allora ci salutiamo per pochissimo, abbiamo appena cominciato un discorso profondissimo, interessantissimo, e dopo capirete anche il perché. Saluto e ringrazio Giupizzo, ringrazio in questo momento in diretta Diego, ma stavolta Cossu, non solo e basta. Diego, grazie, e allora, grazie Pino, grazie a tutti, grazie, è stato molto divertente. Grazie tesoro, ci sentiamo fra pochissimo, aspettateci, Voice Anatomy. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci, come promesso, Pino Insegna ai microfoni di Radio 24, Voice Anatomy, al mio fianco Diego Cossu, questo straordinario medico, musicista di grandissima sensibilità, e ci sta trasportando in un mondo per me abbastanza sconosciuto, nel senso che è bello sentire una persona che ha questa grandissima sensibilità, soprattutto come medico, ma anche come artista, per cui vicino sicuramente a questa professione, è un esperto di vocologia, foniatra, è un chirurgo, per cui io sono tante le domande che vorrei fare. Il tema della puntata lo sappiamo, la voce e il sesso. Che relazione c'è tra questi due aspetti così apparentemente distinti tra loro? È molto molto più vicino di quanto sembri, perché io parto subito dicendoti che la laringe, cioè quella specie di scatoletta che abbiamo nel collo che contiene le corde vocali, è un organo sessuale secondario. Oh, in che senso? Per cui risente giorno per giorno del nostro andamento ormonale. Negli ometti un po' meno, noi abbiamo solo un ormone che è il testosterone, che ci fa girare le scatole da altri punti di vista, ma le donne, a cui possiamo dire, sono più sfortunate di noi, perché vivono in un contesto sempre di tre ormoni, gli estrogeni, i progestinici e un pochino di testosterone. Ecco. E questo è uno dei motivi per i quali... Però subiamo noi tutto questo. Sì. No, questo non vuole essere questa la trasmissione. No, c'è l'uomo che ha parlato, non è l'artista. Ci vogliono dieci anni esatto. No, questo era l'uomo che cercava una giustificazione per aiutare gli altri uomini in ascolto. E ti dirò di più, anche questa è una realtà scientifica ampiamente dimostrata, che ogni alterazione circa mensile, le mestruazioni, il periodo immediatamente prima delle mestruazioni in una donna, si riflettono tali e quali sulle corde vocali. Le corde vocali si gonfiano, le corde vocali si perdono pezzi della loro mucosa e la voce... Come diventa? È più arrabbiata? Una voce diventa generalmente più scura, perché la voce le corde vocali si inspessiscono come nei fumatori, o peggio ancora nelle fumatrici, fino ad ottenere un suono più brunito, che per quanto possa andare bene in un ambito di doppiaggio, perché la prosodia ha un range più stretto della melodia, non può andare bene nelle cantanti che hanno bisogno invece di un'abilità assolutamente perfetta, e soprattutto la corda vocale deve essere perfetta. Per cui diventa un momento anche, si rispecchia anche nel carattere in quel momento, visto che le corde vocali sono più calde, il carattere. È una sorta di distonia generale che non soltanto ha un problema sulla parte superficiale delle corde vocali, ma anche proprio sulla componente del corpo della corda vocale, che è il muscolo. E ricordiamoci tutti che la voce di una donna supera fasi veramente difficili, quattro fasi fondamentali, no? La fase dell'infanzia, la fase della pubertà, la fase più difficile, la fase molto lunga del periodo in cui la donna è fertile, e poi la parte della vita legata alla menopausa. Per cui la voce a questo punto varia secondo gli ormoni che tu hai avuto in quel periodo, il periodo dell'adolescenza, è lì che si caratterizza anche la voce, sia di un uomo che di una donna. Se uno ha più ormoni, progesterone, ha una voce di un certo tipo, se ce n'ha avuti meno, una voce da più leggera magari. Esattamente. Eccetera. Cioè, se io dietro una porta sento un bambino di 4 anni che chiama mamma, io non sono in grado di capire se è un maschietto o se è una femminuccia. Quello vuol dire che non ha un imprinting ormonale, perché a livello encefalico il tratto ipotalamo ipofisario blocca la funzione ovarica. Ed è per questo che per un periodo, apro e chiudo una parentesi, i bambini erano doppiati da delle signore anziane, pensa. Ecco, spiegheremo anche questo, è una cosa fantastica. Dimmi, già che ci siamo. dai. È perché il vecchietto del Far West ha sempre la voce molto acuta, proprio perché vanno a calare gli ormoni maschili e tendono a prendere predominanza quel poco di ormoni femminili che l'uomo ha. La stessa cosa al contrario nella donna. La donna si virilizza, non diventa la virago, quella sempre arrabbiata, quella col cipiglio sempre così. Cioè, noi invecchiamo e facciamo allora pronto da mangiare. Bravissimo. Ho detto 1000 volte che te l'ho preparato da mangiare. Cioè, questa è una coppia di settantenni. Esattamente. Dietro la porta tu ascolti, hanno 70 anni per 75 anni per uno. Però il momento più difficile, il momento più complesso è il momento della pubertà, cioè quando le strade si dividono. L'ormone sessuale che induce l'ingrandimento della questa scatoletta dove ci sono le corde vocali è il testosterone, per cui nelle donne che ne hanno poco la lunghezza, la larghezza, lo spessore delle corde vocali. Parliamo di corde vocali, vero? Okay. Stiamo parlando di corde vocali. Tranquilli. Se mi faccia protetta ancora, no? Esatto. La voce tra la bambina e la donna adulta la differenza non è moltissima, mentre invece è molto grande la differenza tra il bambino e l'adulto. Infatti c'è un cambiamento anche nei figli, cioè abbiamo dei maschi e sappiamo a un certo punto papà papà diventa papà papà. Esattamente. Quello è un'età terribile, perché poi alle nostre latitudini le bambine diventano donne tra i 9 e i 10 anni più o meno, no? Certo. E i maschietti invece ce l'hanno da aspettare, fino a 14 anni stanno lì e siamo quindi in ritardo su tutto, esatto, amico mio. E quindi abbiamo le donne con una voce già quasi più matura, i maschietti che invece parlano ancora tutti così. Senti, quanto abbiamo ancora, perché io voglio aprire quel discorso meraviglioso, abbiamo ancora alcuni minuti. Sì, io so che sei, sei l'autore dell'articolo Voci ed ormoni sessuali femminili. In che modo e in che effetti hanno tali variazioni ormonali sulla voce della donna? L'abbiamo detto, ma tu effettui delle operazioni molto particolari sulle corde vocali. Ne parlavamo prima, cioè la persona che cambia sesso, ma non cambia voce, cioè si ritrova prigioniero comunque di qualcosa che non si riconosce, cioè il corpo ok, gli cambia, da donna, da uomo divento donna, ma la voce resta da uomo, e quello si riconosce e tu dici, beh, che bella, possono entrare anche molto belle, ma la voce è da uomo. Tu invece fai delle operazioni dove la voce di uomo diventa quella di una donna, cioè riesci a finalmente a far finire questa crisalide, cioè finisce questo davvero, diventa veramente una farfalla totalmente. Non lo sapevo, io sinceramente sono rimasto affascinato, e abbiamo degli esempi ovviamente sonori di tutto questo, del cambiamento che avviene a livello proprio vocale delle persone. Sentiamoli, poi diciamo qualcosina. Esatto, ascoltiamoli. Questo è uomo. Ok. Sì, va bene, questo è un vocalizzo di una lei che è già diventata un lui, che è diventato una lei. Questa è una lei. Questa è la stessa persona. E poi c'è un esempio ancora maggiore, che proprio su contare sono dei numeri che conta. 4, ecco, prima 5 6 ecco. 7 8 9 10 E adesso dopo l'operazione. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Però la cosa che non potete vedere è il viso loro quando escono da un intervento di questo tipo. Perché vedete, toccare la voce non è toccare le corde vocali. In questo intervento non si toccano le corde vocali, si fa un intervento sul collo lasciando le corde vocali tranquille, si tirano un po' come se fossero le corde di una chitarra. Ma quello veramente che sincronizza il loro essere neodonne col loro essere neodonne vocali è proprio questo tipo di intervento. Certo. Queste donne si chiudono, queste donne non parlano più, il telefono è terrificante, perché tu sai che in Italia il telefono taglia le frequenze 300-3000 Hz e lì passa il segnale del sesso e li sgamano subito, sentono subito. Ciao, esatto. E questo è una delle cose per le quali loro soffrono di più. Tieni in considerazione che nell'ospedale dove io sono il responsabile dell'unità di foniatria e di deglutologia, che qual è l'ospedale? L'ospedale Santa Croce di Moncalieri. Diciamo, perché c'è chiunque in ascolto, può essere anche ma comunque è utilissimo. Sì, assolutamente. Lì riusciamo a dare un vestito vocale a una donna che ha già un vestito da donna. Per cui recupera tutta la sua sensualità. Questa la è la cosa più della importante. Donna, più importante. Io le lacrime più belle le ho viste quando sono uscite queste persone dopo l'intervento chirurgico e qualcuno ha anche scritto un libro sul nostro reparto, proprio per il grande impatto emozionale che ha questo tipo di intervento, perché la voce non tocca l'aria che vibra, ma tocca l'aria dell'anima, tocca l'anima, tocca il rapporto profondo che esiste in una comunicazione così complessa come quella che passa da decine di anni vissuti con un corpo e con un'idea diversa di sé, che si sincronizza in tempi diversi, prima col sesso, con la revisione chirurgica di sesso, e che poi aspetta di avere una voce che possa corrispondere a ciò che uno è realmente quando si guarda allo specchio. Ecco, aver risolto questa cosa è uno dei nostri grandi risultati, insomma, vedere le persone felici che escono. D'altronde il paziente si chiama così perché soffre, e quindi non deve essere paziente, giustamente. Non dobbiamo avere clienti, abbiamo pazienti, persone che soffrono, questo sia importante. Vedi, io sono affascinato davvero da tutto questo. E credo anche che si sta mettendo in ascolto di questa trasmissione, perché si passa dal gioco dell'attore, dalla vocalità di un attore, alla vocalità dell'anima, alla vocalità di un uomo che diventa donna, di una donna che diventa uomo. Cioè, è pazzesco, è affascinante. Io sono un bambino affascinato da tutto questo, perché è poi un discorso lungo, delicato, ma vedi, Diego, la bravura di un bravo medico sensibile che ama la musica e che riesce con le parole giuste a far sembrare semplice, meraviglioso, e diventa realmente semplice e meraviglioso per chi ascolta. Io credo che sia una finestra importantissima, e spero che questa trasmissione serva anche a questo, a dare proprio eco a una realtà tante volte, sai, in minoranza. Cioè, una persona non può sospettare, ho delle amiche, amici che hanno questo problema e che fino a ieri, fino a oggi, non sapevano come risolverlo, e questo è straordinario. Mi permetti, deve passare il messaggio che se io risolvo un problema, non è un problema estetico questo. Noi lo facciamo in ospedale questo, anche certo, proprio perché viene acquisito come una necessità fondamentale della persona. Ricordati che il foniatra non è quello che cura le corde vocali, ma è il medico della fisio, cioè è il fisiopatologo della comunicazione umana, e le persone di questo tipo hanno problemi sulla comunicazione, per questo che si chiudono. Che bello. È fondamentale. Signori, dobbiamo salutarci per un attimo. No. Voi sanatomi, aspettateci, Diego Cosso è qui con noi. Grazie Diego, a fra pochissimo. Dopo. Voice Anatomy. Bentornati a Voice Anatomy. Vicino a me il grande vocologo e musicista, studioso della psiche, della voce. Mi piace questo discorso, ma in tutto abbiamo visto adesso l'esempio che ci ha fatto di questa trasformazione totale, poi di un uomo che diventa donna, ma soprattutto questa operazione ai quali vengono sottoposti non invasiva da parte del professor Diego Cosso e del suo staff, che riesce a ridare completamente una sessualità nuova, completa, a queste persone. Ed è una cosa straordinaria. Dall'altra parte del globo, ma da Budapest, è in diretta con noi, visto che parliamo di voce e di sensualità, non poteva che essere presente la straordinaria, una carissima amica, Eva Enger. Ci sei, Eva? Ciao Pino, un bacio. Ecco, già da questo ciao Pino, un bacio, capite perfettamente i motivi per i quali ho chiamato Eva. C'è una sensualità nella voce, anche può dire anche perfettamente di che segno zodiacale sei, da dove stai chiamando, e tutto diventa meraviglioso. Da dove stai chiamando, Eva? Ma guarda Pino, adesso sono all'aeroporto di Roma, che sto andando a Vienna. E poi vado a Budapest. Eh certo, se stavi a Roma però potevo fare... No, in effetti sta per partire l'aereo, dobbiamo anche sbrigarci. Cara Eva, questa trasmissione che ha un grandissimo successo, e io ringrazio veramente tutti coloro che si stanno avvicinando a questo mondo, al mondo della voce. Tu sei passata praticamente attraverso tutti i ruoli, dai tuoi ruoli da sexy attrice ovviamente, ma anche in trasmissioni importanti, a dei video importanti anche con grandissimi cantanti come Snoop Dogg, che è straordinario, ovviamente campeggi sulle copertine di Playboy Italia, ma hai fatto anche dei reality molto interessanti come La Fattoria, sei entrata anche nella casa del Grande Fratello, sei stata conduttrice anche di Paperino Sprint, per cui è la sua... Io adoro Eva per motivi straordinari, perché è una persona di grandissima sensibilità, di grandissima disponibilità e di grandissima onestà intellettuale. Per questo mi piace oggi averla ospite. Ma ci mancherebbe, non è soltanto viaggeria, è ovvio, noi ci conosciamo. Sono tutta rossa. No, vabbè, anche rossa stai bene, nonostante tu sia bionda, assolutamente. Eva, noi parliamo della voce, è nel tuo campo, insomma, la voce è fondamentale, insomma. Quando reciti in quel tipo di film, nei film sexy ovviamente, l'utilizzo della voce è recitato oppure è spontaneo, è vero? Beh, secondo me è recitato, sì, anche perché tu lo sai perfettamente, questi film vengono doppiati spesso dalla stessa attrice oppure da un doppiatore bravo che ha una voce più sensuale. Io per esempio avrei voluto sempre avere una voce più sensuale e più bella, non mi piace tanto quello che ho. però cerco comunque di modificarla e farlo diventare un po' più sexy. Tesoro, siamo ancora in una faccia, c'è il professore qui che è venuto ospite praticamente sì un po' per me, ma soprattutto quando ha saputo che eri ospite, ecco. Tu qui c'è un grandissimo, come la trovi la voce di Eva? Assolutamente quello che mi aspettavo di trovare, esatto. Da Eva Enger, sì. Meravigliosa, anche senza alzarla di frequenza è meravigliosa lo stesso. Complimenti Eva, complimenti con tutto il cuore. Grazie. E non c'è adesso il video, per cui è la voce che campeggia, quella che ci racconta un po' è quella tutto. Che porta tutti i significati di questa voce. Assolutamente, per cui tu dici noi abbiamo lanciato prima una provocazione telefonica, se qualcuno era in grado di rifare la scena di Harry ti presento Sally, quella del godimento dell'orgasmo finto che ha Meg Ryan insieme a Billy Crystal, il numero di telefono è 800. No, no, non te lo chiedo perché stai in un aeroporto, tesoro, e poi insomma mi sembra una provocazione. Come dire a Baggio de palleggiare davanti alla gente, insomma non è quello che ti chiedo, assolutamente 800 24 00 24. E insomma senti, ma tu riesci a capire quando il tuo partner in un film eccetera recita con la propria voce durante un rapporto oppure sta fingendo, cioè la riconosci la voce delle persone quando reciti anche quando non reciti, cioè tu come la giudichi? Beh, sì, sicuramente le donne recitano di più. Gli uomini, diciamo che devono fargli piacere per forza. Questa è una cosa più visibile. La donna tranquillamente può fingere, nel senso che magari non ha nessuna voglia di essere lì, allora cerca di recitare con la voce. Ho conosciuto alcune ragazze che hanno fatto quel tipo di lavoro, normalmente ho conosciuto e lavorato insieme, insomma, e avevano una voce completamente diversa da come si apparivano nel film. Perciò io lo riconoscevo quando stavano proprio recitando. Noi uomini non ce ne accorgiamo, vero? Voi riuscite perfettamente a duplicarla serenamente, una finzione da quel punto di vista, mentre l'uomo proprio non è in grado. Cioè non è finto, diventa finto assolutamente, mentre voi riuscite perfettamente a me, parlo anche nella quotidianità, oddio spero che non accada mai in famiglia ovviamente, ma può capitare, insomma una donna riesce a prenderci in giro tranquillamente, noi no, vero Eva? Io spero per te che non è così, comunque ho conosciuto tua moglie, non credo proprio. Hai visto che sorriso che ha stampato? Secondo me lei c'è un bel carattere, te lo direbbe subito, vada Pino, prova. Grazie Eva, per male siamo amici. C'è Diego che si sta scompisciando dalle risate. Ma in effetti, sai, la voce nella sessualità è fondamentale, ma soprattutto viene modificata quando ci stanno quelle telefonate. Tu non le hai mai fatte quelle linee particolari, no? Eva, l'hanno fatto le tue colleghe, quelle della telefonata. No, l'ho fatta. Riuscivi? Sì, e com'è una telefonata? Facciamo finta, io sto telefonando. Pronto? Pronto, chi sei? Pronto? Sì? Ciao. Mi chiamo... Io sono... Da dove mi chiami? Dalla mia stanza a casa. Ti sto guardando e sei bellissima, davvero. Ti senti solo? Sì. Poi adesso... ti faccio un po' di compagnia. Mi viene fermati che ci arresto. Fermati. Vedi l'ironia, la grande ironia di una grande... No, erano allora, la prima volta è stato imbarazzante perché, non so, io pensavo che adesso faremmo una chiacchierata, eccetera. Invece quello lì, io parlavo, ho fatto un po' di gemiti e dopo 10 secondi mi ha attaccato in faccia. Non è stato un rapporto molto sbrigativo. Aspetta, un maestro si è messo a suonare pianoforte in esposizione. Ah, un altro si è messo a suonare pianoforte? Oddio, beh, c'è di tutto in effetti. No, adesso qui. Uno si è messo a suonare pianoforte? Beh, t'ha sentito la voce, una voce che cantava e a quel punto ha suonato pianoforte. No, insomma è stato un rapporto un po' maleducato da parte di lui e poi ho capito che anche il secondo e il terzo ha fatto così che... E poi mi hanno spiegato, cerca di tirare più lungo il discorso su delle generalità per tenerli più a linea, perché così pagavano di più, no? E quello, insomma, infatti... ho fatto due volte questa telefonata, due o tre volte, poi è finito lì per la mia carriera. Qualcosa non funzionava. Sì, eri troppo sensuale, Eva. A quel punto durava veramente 20 secondi la telefonata. No, beh, in effetti poi uno se ne accorge dal punto di vista, cioè noi che studiamo un po' la voce del professore, ovviamente io come attore ti accorgi se una persona sta fingendo, perché poi la c'è una telefonata, Eva, rimani qui con noi, ascoltiamo un attimo se ha ascoltato e vuole la provocazione. Pronto? Pronto, salve. Con chi parlo? Salve, Federico da Trieste. Federico da Trieste, tu per cosa chiami? Per una domanda Eva al professore oppure per la provocazione che ho lanciato io di ieri, ti presento Sally? È quel film dove c'è quella cosa dove lui si eccita, no? Sì, dove lei fa finta l'orgasmo. Tu che sei un uomo, fingimi questo orgasmo allora. Mi raccomando, in maniera educata, Federico, ti prego. Nel senso, cioè, dalla parte finale, l'arrivo, oppure dall'inizio? Non so da dove parti tu quando c'hai... sì, dall'inizio alla fine, insomma, però pochi secondi. L'inizio, sì. Cioè, incomincio, come va, tutto bene? Ma no, quando... Scusa. Questa è comicità involontaria. Scusa Federico, non amo ovviamente prendere in giro chi telefona, però no, nel film c'è lei che dice posso fingere perfettamente il gradimento sessuale con la voce. Ricordo. Però ecco l'orgasmo, quello... Ok, quindi tu dici proprio l'ansimare. Sì. Sì. Va bene. Federico, vuoi fare una domanda a Eva Enger o al professore? C'è la possibilità di contattarla direttamente. Sì, va bene Federico, grazie, scusami, no, non è questo. Va bene Federico, grazie della tua spontaneità e tua simpatia involontaria, credo, perché... Va bene, grazie Federico, grazie mille. Ciao. Bene, abbiamo salutato Federico, che aveva un po' le idee confuse, c'è veramente di tutto in giro, Eva. Hai sentito come ha cercato di... dimmi. Lo sai, prima hai fatto una domanda su quella con la telefonia. Sì. Quando ero lì ho visto le altre ragazze, lo sai che uno di loro era un maschio che faceva l'università e guadagnava i soldi così, perché avendo una voce molto femminile e molto bella, era la più richiesto, perché nessuno sapeva che era un maschio, e conoscendo meglio anche gli uomini, insomma, aveva un successo enorme. Certo. Poi invece abbiamo qui questo, ecco, era un maschio con la voce da donna senza l'utilizzo, ma a quel punto c'è la possibilità che una abbia una voce femminile, vero professore? A quel punto. Sì, senza bisogno dell'operazione che invece il professore fa. Ad alcuni noi le rifiutiamo gli interventi, perché intervenire su una voce che già percettivamente è molto femminile, l'atteggiamento è discreto, è più controproducente fare l'intervento, rischiando di peggiorare la natura e rendere magari anche più ridicolo la modalità fonatoria, quando uno ha già acquistato, come in questa persona che dice Eva, una buona credibilità, si lascia assolutamente così, non dobbiamo mica farlo per forza. No, assolutamente no. Appunto. Eva, dove stai andando adesso? A Vienna dove? A Vienna all'aeroporto, poi viene a prendermi mio marito e mi porta a Budapest. Da Vienna ti porta a Budapest. Da Roma non riusciamo a fare direttamente Roma-Budapest. Adesso non voglio sapere gli orari. Cioè tu sei all'aeroporto? No, che ieri sono partita. Ieri sera ho avuto una serata. Sì. E Massimiliano aveva da fare lì a Vienna, perciò hanno fatto così il biglietto, perciò anche il ritorno, diciamo che. Ah, così tornate insieme con l'amico Massimiliano Caroletti, ormai è diventato presidente di due squadre di calcio a Budapest, per cui guai a chi gliele tocca, anche se c'è. E hanno vinto oggi. Oh, vinto. Finalmente. Com'è il gradimento vocale di una vittoria? Com'è? Quando segna un gol sensuale, com'è? Guarda, quello non può essere sensuale, perché io evito di andare nei stadi proprio, sì, perché ancora funzionano un pochino i timpani, perché quando sto lì dopo non sento per quei giorni. E il problema è che non guardano più la partita, è che non guardano più la partita, tesoro mio, è quello. Come no? Non la guardano, un uomo resta un uomo e tu sei una donna intelligente, oltre che molto non bella. Credo. Non credo, io potrei correre nuda a lato del stadio, secondo me quando c'è la partita. Non farlo. Si accorgono. Eva, non farlo. Dai retta a me, non farlo. Tesoro, io ti abbraccio forte, ti saluto anche Alessia, che è una delle autrici di questa trasmissione all'altra parte del vetro. Ti ringrazio tantissimo sempre della tua amicizia, della tua disponibilità, della tua simpatia, della tua autoironia, che è fondamentale grazie. Per portare avanti la nostra vita. E allora Eva Enger, grazie, un abbraccio a tutta la tua grandissima famiglia e ci vediamo presto, grazie. Grazie, allora, grazie anche a voi per un proseguimento. Di Voice Anatomy continua con la tua voce sensuale. Voice Anatomy continua, restate con noi. Tutto benissimo, dirò io allora. Diego resta qui con noi per l'ultima parte della trasmissione. Certo. Diego, dirò io con la mia voce, ma cercherò di essere più spontaneo possibile. Voice Anatomy continua tra poco. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Voice Anatomy. Ed eccoli gli ultimi 10 minuti di Voice Anatomy, puntata anche oggi molto energica, molto appassionante. Ovviamente il tema è caldo, però l'abbiamo trattato in tutti i suoi meandri, non soltanto in quelli pruriginosi, che era molto facile affrontarli. Invece non abbiamo fatto neanche con Eva Enger, che è stata come sempre una persona disponibile, molto carina. Al mio fianco chiudo con il professor Diego Cossu, e volevo, ne parlavamo prima, la valenza psicosessuale della voce. La voce è la voce comunica il sé, e comunica il sé non solo corporale ma soprattutto sessuale. Cosa serve la voce? A identificare il vociferante, cioè colui che parla. E nel semplice modo di esporre anche un semplice saluto, ciao Pino, si sa come sto, se sono un maschio, se sono una femmina, se ho la disponibilità ad entrare in comunicazione con te, quali sono le mie intenzioni, buone, cattive, neutrali. Ma rimanendo in ambito sessuale, se prendiamo il fatto che la sessualità è l'equilibrio fra interno che abbiamo dentro di noi, no, tra corpo, mente e anima, allora la voce potrebbe essere espressa in modo assolutamente sopra le parti come un'espressione di noi soprattutto, cioè la voce è quello che lega tutto il nostro essere. Ecco, i transessuali hanno questa discrasia, questa rottura proprio tra il noi vero e il loro vero e la finzione che sono costretti a fare. No? Leggerendo la voce, esagerando, poi è diventato macchiette di loro stessi. Ma non l'ha fatto Eva, lo faccio io. Più volte le mie pazienti, quando vedono la loro laringe su dei grossi monitor ad alta definizione, dicono: dottore, ma quella è la laringe? Perché la laringe sembra veramente un organo sessuale femminile. È vero, la vagina. Bravissimo. Quindi, diciamo che iniziamo dalla bocca. Sì. La bocca, os, oris, orifizio, la derivazione latina, no? Certo. Che in termini sessuali può essere la vagina, può essere l'ano, no? La laringe, che può essere questo condotto lungo che può ricordare un fallo, le corde vocali, l'imene. È vero. E i suoni glottici, perché ricordati che la mia A, E, I, O, U non sono nient'altro che un unico suono delle corde vocali che vengono cambiate dagli atteggiamenti delle strutture che stanno sopra le corde vocali, la lingua, le guance, che noi adattiamo, no? Ma se noi mettiamo un microfono sulle corde vocali, noi sentiamo zzzz, e questo rumore potrebbe richiamare quella che si chiamano le fricaziones, cioè gli sfregamenti vaginali, certo, sì, pre e post coitali. Adesso è una visione molto diciamo collaterale della voce, però è fondamentale che... Sì, però è una costruzione iconografica che fa rendere l'idea. Assolutamente, crea moltissimi problemi a chi come me deve dimostrare che realmente quella che sta vedendo è una laringe, è una laringe, no? Laringe, e non, cioè, non, e hai... non altre cose, no? Ma questa cosa mi diverte, mi affascina, è questo suono che se tu metti questo microfono immaginario ovviamente sulle corde vocali, c'è questo suono, sì, unico, è un suono, si chiama buzzing. Per cui il suono, poi a quel punto viene le vibrazioni delle corde vocali, ma poi l'acquisizione, la parola viene composta sulla laringe, cresce, sale, va nella bocca, va nella maschera nasale, dove... No, teniamo in considerazione che la voce ha tre piedi come un bel tavolo, la respirazione, sì, le sue componenti, certo, di appoggio, diaframmatico. La laringe che vibra e costituisce il vibratore, quindi il produttore di frequenze, ma soprattutto quello che usiamo noi moltissimo è tutti gli spazi che abbiamo sopra le, certo, corde vocali, che sono gli spazi sui quali possiamo giocare. La voce, no? Di testa, la voce di maschera, certo, la voce in... Certo, quello che mi dà la possibilità di avere la teleologia, la finalità della voce, cioè la portanza e la proiezione del suono, perché queste sono le nostre caratteristiche. E i cantanti studiano questo. Fondamentalmente, i cantanti di musica lirica. Perché i cantanti di musica leggera hanno un bravissimo mixer, una persona che sta al mixer che gli amplifica, bravissimo, che gli amplifica il segnale. Quindi, rimanendo nel campo della psicosessualità legata alla voce, è importante stabilire quanto gli ormoni sessuali, la modifica degli atteggiamenti posturali, tutto quello che c'è intorno alla voce è voce, ma è anche qualcosa di diverso. Ecco perché non si può essere quelli che si è senza avere la voce che noi vogliamo avere. La voce ci ha accompagna, la voce è noi, la voce cresce storicamente con noi, cresce dal punto di vista della comunicazione generale, la nostra voce è noi. Se noi un giorno perdiamo la voce andiamo in crisi, anche perché ricordati che dal 1950 ad oggi il rapporto tra lavoratori vocali e lavoratori manuali si è completamente invertito. Adesso quanta gente lavora, come diceva Enger, davanti a un microfono, vero, masticando il chewing gum e fingendo un orgasmo, oppure vendendo una polizza, certo, un call center. E quella è una cosa importante. Ecco, quella è la valenza della voce senza la persona. E poi quando incontri la persona magari ha delle belle altre cose da dirti, che la voce magari di per sé stesso non riesce a farle passare. Ma che bella cosa, vedi, gli applausi scorgono spontanei in questa cosa. E io vorrei spero di avere ancora con noi, non tanto con me, privatamente con me tutta la vita, perché gli chiederò qualsiasi cosa in privato a Diego Cosu, ma poi avremo il piacere di averlo con noi perché dobbiamo parlare di tante cose insieme a lui. Vorremmo, e abbiamo un pensiero comune, quello che lo studio della voce entri a far parte delle materie scolastiche, proprio dall'infanzia, il teatro, la voce, perché è veramente l'organo fondamentale di comunicazione. Ti porto via ancora un secondo. Sì, come no, voglio, no, certo. Voglio lanciare assolutamente un messaggio. Sì. Il trend della disfonia dei bambini, della disfonia infantile, è in clamorosa crescita. Siamo intorno al 34-35% dei bambini disfonici. Beh, uno su tre non è male. Ricordatevi che un bambino disfonico non curato diventa un adulto disfonico che riterrà la sua voce disfonica normale per tutta la vita, magari fa l'insegnante. E dato che gli insegnanti insegnano non soltanto quello che la loro materia, ma anche la modalità di comunicativa, i bambini ritengono che quella modalità sia quella corretta, mentre invece è una modalità disfonica. Quindi correggere un bambino disfonico è un obbligo. Esattamente, disfonia cosa significa? La disfonia vuol dire sovrapposizione di rumore su un suono, quindi una A può diventare una A. E diventa anche brutto seguire una lezione di questo diventa tipo. Brutto perché non hai più prosodia, perché le voci sane crescono, diminuiscono, cantano con la parola, mentre invece una voce malata può essere soltanto così, che può avere una sua valenza, certo, ma non di quella telefonica dopo mezzanotte, didattica. Esattamente. Allora abbiamo dall'altra parte Capuano, sì, per tutti eccomi. I convocati. Hai sentito che trasmissione oggi, Capuano? No, ho sentito e mi spiace interromperla, devo dire la verità, anche tra l'altro con questa voce un po' costipata da mese di Capuano, ottobre, novembre, costipata, c'è una voce costipata. Senti, i risultati al volo, fammi sapere, io non so veramente niente, la mia Lazio gioca alle 18, sì, insieme alla Roma, Lazio gioca alle 18, quindi stai tranquillo, è sto finita sereno. Soltanto Udinese Frosinone 1-0, gol di Lodi, in realtà è praticamente finita anche Juventus-Atalanta. Quanto? Perché la Juventus sta vincendo 2-0, Dybala e Mandzukic, ma siamo davvero nei secondi di recupero. L'altra partita, fischio finale proprio in questo momento, che forse era la più importante di questo pomeriggio, è Milan-Sassuolo. Il Milan ha vinto 2-1, però ha rischiato perché il gol decisivo l'ha fatto all'86esimo di testa Luis Adriano. Milan che ha giocato praticamente tutta la partita in superiorità numerica per l'espulsione del portiere Consigli in occasione del fallo da rigore che aveva portato in vantaggio i rossoneri, gol di Bacca, ma ci sarà molto da discutere. In mezzo poi c'era stato il pareggio di Berardi che ha segnato a quel portierino lì, Donnarumma, che oggi è esordito a 16 anni è vero, in Serie A, 16 anni, praticamente un bambino. Ma sono contento per l'amico Mihalovic, che è una persona che merita rispetto, perché è una persona molto piacevole, molto seria, e vediamo che cosa succederà più tardi. La Juventus, mi dispiace per l'amico invece Reia e Bollini, che vabbè, però con la Juventus se ci può stare, insomma, una sconfitta dopo questo bel percorso che hanno fatto. Dottor Capuano, a lei e a tutti gli altri suoi colleghi, i tre moschettieri di tutti i convocati, vi auguro ogni bene. Fra poco so che vi collerete in MotoGP, eccetera. Io invece oggi puntata movimentata. Io vado di corsa invece a teatro con Alessia Navarro, quale chiuderemo l'ultima settimana qui a Roma, al Teatro Tirso, con Frankie e Johnny Paura d'Amare. Per cui, chiunque in ascolto, state tranquilli, alle 17.30 staremo in scena. Bene, grazie, dottor Capuano. Ti do un bacio, un abbraccio. Grazie a te. Sincero, e saluto con grandissimo affetto questo nuovo amico straordinario, questa bellissima persona, grazie, professionista, Diego Cosu. Grazie a tutti, Voice Anatomy torna domenica prossima.